Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Accomodatevi, si aprono le porte di questa casa non è un albergo. Siamo pronti per parlare delle relazioni con i nostri figli. Seduto accanto a me Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, oggi partiamo dai dati, Alberto. Sì, abbiamo tra le mani una ricerca, ci ha molto interessato, molto incuriosito. Credo anche che sarà interessante per i nostri genitori. Parla di trasgressione, una di quelle cose che fanno impazzire le mamme e papà quando in casa ci sono gli adolescenti. La analizzeremo in una prospettiva molto molto ampia. È una ricerca che ha curato il Censis, e proprio per dare il là ai pensieri e alle riflessioni prima di presentare i nostri ospiti, se sei d'accordo, farei ascoltare una breve scheda che riassume i contenuti della ricerca. Andiamo. I giovani, afferma il Censis, proiettano l'immagine di una società caratterizzata ormai da un relativismo esasperato, che stenta a condannare anche i comportamenti riprovevoli. Il risultato è che per il 75,2% dei giovani, la società esprime una debole condanna per il manager di successo che fa uso di cocaina, o la donna che usa il proprio corpo per affermarsi e fare carriera, 73,3%, o lo studente modello che si sballa tutti i fine settimana, 67,2%. La poltiglia valoriale e comportamentale, scrive il Censis, sembra sempre più accettata dal corpo sociale sulla scia di una malintesa retorica della libertà di essere se stessi. Per il Censis vince soprattutto l'affermazione di sé, che, coniugata a fenomeni quali la grande affluenza alle selezioni per la trasmissione Grande Fratello o al boom di Facebook, in un anno gli utenti sono passati dal 2 al 44% dei navigatori web, fa parlare di tendenza al casting personale di massa, per amplificare l'autorappresentazione di sé. Alberto, allora, secondo quindi i ricercatori, la trasgressione non scandalizza più e il faro di orientamento dei comportamenti è l'affermazione di sé, il primato del singolo, tanto che il Censis usa parole grosse, parla di poltiglia valoriale comportamentale, parole difficili che inquadrano una situazione che scandalizza noi, no? Adulti. E comunque noi adulti, e ci fa paura. Ma per fortuna abbiamo degli esperti, oltre ad Alberto Pellai, pronti ad aiutarci a fare chiarezza. Andiamo subito a salutarli, il dottor Giuseppe Roma, direttore del Censis, l'ente di ricerca che ha presentato questi risultati. Dottor Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. In linea abbiamo anche il professor Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, professore incaricato di psicologia dell'adolescenza presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Qua ci sarà da lavorare, eh? Senta, allora, dottor Roma, noi abbiamo letto un brevissimissimo riassunto della vostra ricerca. Allora, però, vuole fornirci lei un quadro più preciso di quella che voi chiamate nella vostra ricerca la poltiglia valoriale? Lo ripeto perché sono termini che mi hanno colpito molto. Quando parliamo di valori, abbiamo sempre uno scatto quasi etico, molto generico, se vogliamo, anche astratto. Invece abbiamo constatato che il fatto di avere un po' avuto una certa indulgenza, soprattutto nel passaggio fra le generazioni, dei contenuti, diciamo così, della vita, di cosa in realtà ciascuno di noi richiede a se stesso in termini di motivazione, in termini di slancio e responsabilità, tutto questo sta producendo una confusione generalizzata di quello che è giusto fare e quello che invece forse è sbagliato fare, la dico in questi termini. Quindi nella nostra vita di relazione, nella vita ordinaria che tutti conduciamo, molte situazioni che solo pochi anni fa ci avrebbero scandalizzato, che non solo non ci scandalizzano più, ma riteniamo che non abbiano nessuna sanzione sociale, tant'è vero che alcune delle cose riportate nella scheda, il manager che usa la cocaina, o soprattutto il giovane che ha dei comportamenti paradevianti, cioè il sabato sera ci si può ubriacare, il sabato sera si può usare droghe di tutti i tipi, questo atteggiamento magari il giovane, se glielo si chiede, dice ma sì, no, non è una cosa giusta, però quello che mi arriva dalla società è che in fin dei conti si può fare. Allora questa libertà senza vincoli è anche una libertà che non induce alla responsabilità. Certo. E poi noi ci troviamo in una generazione di ventenni, di trentenni che ha tutte le difficoltà ad essa correlate, cioè l'università si fa perché si deve fare, però non c'è un vero senso di voler raggiungere qualcosa studiando, si studia, poi si vede, infatti si sceglie assolutamente casualmente quello che gli pare, tanto poi non è che studiare serva anche a diventare adulto, ad essere autonomo, insomma è questo insieme di questo filiere, diciamo, questo insieme di comportamenti che alla fine ci ha un po' colpito, ecco, ci ha un po' colpito perché... No, ma colpiscono anche noi nel quotidiano, Alberto. Sì, proprio una frase che c'era nella nostra scheda, cioè rivendicare la libertà di essere se stessi, secondo me rientra poi nel tema di litigi di moltissime madri e padri con i propri figli, cioè quando un genitore vede un comportamento preoccupante e prova a interagire col figlio su quel comportamento, si sente spesso rispondere: embè, così, che male c'è? Fanno tutti così? Ma non hai visto che anche in TV questo, quell'altro lo ha fatto, lo ha detto, lo ha raccontato? E alla fine rimane proprio questa percezione che fa male nel caso in cui diventi di danno a qualcun altro. Ma se lo includo nel mio stile di vita personale, poi so che non danneggia nessuno, dov'è il problema? Ecco, la domanda proprio che... Allora io avevo anticipato al professor Lancini che l'avremmo messo sotto a lavorare. Dov'è il problema, professor Lancini? Ma guardi, il problema ovviamente riguarda diversi aspetti che avete già trattato. Di sicuro un nuovo modello educativo familiare che ha attraversato l'Italia, frutto di cambiamenti importanti, che ha favorito, come dire, dei modelli in cui si favorisse appunto l'espressione di se stessi da parte dei bambini sin da piccoli, e contribuisce dopo a ovviamente il modo in cui si affronta l'adolescenza, in cui in qualche maniera c'è un po' il rischio che gli adulti dicano: ecco, adesso va bene, è vero che devi esprimere se stesso, però ci sono anche gli altri, e i ragazzi trovano, come dire, una certa distonia rispetto al fatto che evidentemente se ne accorgono, in fondo hanno anche dei valori, ma dicono: ma proprio adesso che arriva l'adolescenza e devo realizzare me stesso, mi dite che non devo come essere me stesso? Questo di sicuro è uno degli aspetti. L'altro credo sia riferito anche all'importanza che assume il gruppo anche rispetto alle trasgressioni, nel senso che c'è una richiesta anche di socializzazione, poi se volete ne discutiamo meglio, con i bambini sin da piccoli. E quindi il gruppo diventa di sicuro un ambito di relazione straordinariamente importante a cui è richiesto di appartenere sin da piccolo anche dai genitori, dalla madre che delega delle funzioni accuditive già agli asili e via dicendo. E dopo credo che ci sia il problema già trattato anche da chi ha parlato prima rispetto, no, sia dal dottor Roma che da Pellai, sull'aspetto relativo alla società, nel senso che è anche vero che è una società che propone dei modelli anche da parte degli adulti, dove avere successo al di là di questioni etiche viene considerato normale. Questo è alimentato a volte anche da alcune trasmissioni televisive, alcuni modelli. Però secondo me l'aspetto centrale da questo punto di vista è che qui si parla di trasgressione, e per gli adolescenti, e forse questa la questione degli adolescenti odierni, queste sono delle trasgressioni che, come dire, noi le chiamiamo ancora così, ma che molti di loro, come testimoniato da tante ricerche, vedono come appunto quasi delle nuove normalità, nel senso che la trasgressione in passato mi sembra che fosse qualche cosa relativo anche al fatto di trasgredire rispetto ai valori degli adulti e al padre, alla madre, quindi in qualche modo avesse anche un significato, come dire, di trasgredire perché emancipativo, si realizzava se stessi in qualche maniera anche in opposizione agli adulti. Penso ad esempio al consumo delle sostanze, che aveva dei valori di contestazione anche. Adesso siamo in un'area in cui la trasgressione è chiamata da noi rispetto, diciamo, anche alle leggi, ma nella rappresentazione degli adolescenti che incontriamo quotidianamente è forse come considerata in parte appunto una nuova normalità. Dottor Roma, nella vostra ricerca voi parlate di un modello dominante, che è quello dell'affermazione di sé, alla base del quale mettete fenomeni quali il Grande Fratello e Facebook. Che correlazione trovate tra i due elementi? Perché l'avete cacciati qua dentro? Guardi, la correlazione è data dal virtuale, dal fatto che in realtà sia nella proiezione comunicativa televisiva, cioè io voglio avere un ruolo in quanto appaio attraverso i mezzi di comunicazione di massa, sia nell'aspetto delle relazioni amicali, no? Amici che conosco e frequento in maniera virtuale, troviamo in tutti e due questi fenomeni un'astrazione dalla realtà effettiva, come una specie di fuga dal proprio mondo familiare o anche quello scolastico, quello territoriale, insomma la strada che era una volta il punto di incontro. E in verità il problema adesso credo lo dobbiamo anche riportare alle relazioni proprio genitori-figli. Cioè è evidente che se si trasmette ai figli questo senso di compatibilità delle cose che fanno male con una vita ordinaria, no? Per esempio l'uso di sostanze che alterano la propria capacità di conoscenza e di fare le cose, che poi è compatibile, per cui certe droghe oggi sono più diffuse di altre che invece erano totalmente autodistruttive, oggi si pensa di poter gestire. Ma questa compatibilità o questa normalità, a quale normalità tende a dare una risposta? Cioè a quale mancanza di rapporti tende a dare una risposta? E qui secondo me è il vero punto. Io credo che noi abbiamo una giovane generazione che non vedono più nei genitori o non vedono dove succedono questi fatti, perché poi non in tutte le famiglie succede questo per fortuna, ma vede un atteggiamento dei genitori che è improntato a una pendolarità o un eccesso di protezione, per cui non so, c'è un cattivo voto a scuola, ci sono tanti genitori che arrivano a fare ricorso al TAR, insomma, cioè addirittura un'iperprotezione del figlio nei confronti della scuola, o dall'altra parte una certa indifferenza, cioè oggi una via di mezzo per cui il genitore dimostri di avere affetto, amore per i propri figli, ma allo stesso tempo sia capace di mantenere una barra al centro, cioè di sanzionare anche, oltre che e soprattutto di orientare i comportamenti, le opinioni dei propri figli, e questo è il punto essenziale, cioè quello che manca è l'auto controllo e la trasmissione del senso dell'autocontrollo dai genitori ai figli, perché tante volte non c'erano neanche i genitori, questo è anche il punto. Ci riporta ad un tema che abbiamo trattato tante volte in trasmissione, che poi è un po' il nocciolo della questione: tornare alla misura, né troppo né troppo poco. E per i genitori di oggi, insomma, può essere difficile, perché la società ci mette tante volte in difficoltà, ma è anche vero che la società siamo noi, quindi insomma non si scappa, bisogna in qualche modo riprovare a ricalibrarci. Alberto, tu nei tuoi incontri con i genitori sicuramente affronti questi temi, un po' i genitori che sono spiazzati vorrebbero, come dice il dottor Roma, magari avere degli atteggiamenti iperprotettivi, dall'altro lato a volte lasciano proprio, no? il volante, il remo, e la barca va per i fatti suoi. Guarda, uso due parole chiave che sono state dette anche in questi minuti insieme. Una è la parola potere. Potere è proprio quella cosa che esercita un genitore su un figlio e che progressivamente cede, diminuisce, decresce, perché il figlio acquisisce più potere e quindi conquista la propria autonomia. La seconda cosa è successo, che vuol dire realizzarsi nella vita, avere successo perché dimostri chi sei, cosa sai fare, quello che vale. Allora, normalmente dovrebbe essere che il percorso di crescita ti porta ad avere successo, in quanto pian piano acquisisci un potere che ti rende capace di fare. Secondo me uno dei problemi delle nuove generazioni è che si sono invece resi conto che più potere hai, più successo ne deriva. E cito proprio il caso di Facebook, perché fondamentalmente è una comunità virtuale che dà molto potere, molto successo ai ragazzi attraverso, per esempio, la conta di quanti amici si linkano con il tuo profilo, in qualche modo quanti amici hai dentro a Facebook. È quello che ti dà il valore. Più ne hai, più tu vali. Hai, più vali, più hai potere, più hai successo, però è tutto virtuale. A questo punto direi, secondo me, molto interessante sentire il professor Lancini, che proprio in queste settimane ha pubblicato un libro per Franco Angeli con i risultati di una grande ricerca condotta su un campione molto significativo di adolescenti, si intitola Sempre in contatto, le relazioni virtuali in adolescenza, che sono il tema del proprio del suo libro, propongono proprio un nuovo modo di pensare a come gli adolescenti si muovono nella vita reale, usando sempre di più la virtualità. Ha a che fare tutto questo con il loro modo di diventare grandi e di non avere la percezione reale di cosa è l'etica, dov'è la normalità, pensare che la trasgressione è normale e la normalità non lascia spazio a paletti o recinzioni di nessun tipo? Ma di sicuro, appunto, la virtualità pone delle nuove questioni ed è uno dei motivi che ci hanno spinto anche per utilizzare in futuro in termini preventivi, educativi, aiutare i ragazzi a ragionare sull'uso, diciamo, più consapevole e responsabilizzato di questi strumenti. È però vero, come dice lei, che la nostra ricerca, che si è interessata, e questo bisogna dirlo, di ambienti specifici, cioè di quelli che sono gli strumenti di comunicazione mediata tecnologicamente più diffusi tra gli adolescenti adesso, proprio adolescenti, quindi gli SMS, i messaggini e Messenger, cioè strumenti di comunicazione, e quindi questo è importante perché la ricerca ha riguardato questi, quindi anche lo squillino, cioè l'uso del telefonino e di questo programma Distant Messaging che è diffusissimo sul nostro territorio nazionale, come ben noto. Allora, da questo punto di vista è vero che, diciamo, la nostra ricerca mette in luce, ha cercato di analizzare un uso anche di, come dire, più fisiologico di questi strumenti, no? Quindi sono, non stiamo parlando di alcune chat, di altri ambienti virtuali, e da questo punto di vista ci sembra, la ricerca insomma lo testimonia, questo forse può tranquillizzare, che gli adolescenti odierni sono più consapevoli forse di quanto gli adulti si immaginano della differenza che esiste tra una relazione reale e una relazione virtuale da questo punto di vista. Pura, professor Lancini, lo sanno. Sì, lo sanno molto di più probabilmente di quanto noi ci allarmiamo, nel senso che i ragazzi usano anche parole molto dure per chi si nasconde dietro questi strumenti per comunicare cose importanti ai suoi coetanei. Vi ripeto, però stiamo parlando di strumenti di comunicazione e quindi ne cercano di, ci hanno dato insomma delle risposte interessanti dal punto di vista dell'uso che se ne fa a sostegno dei compiti evolutivi. Mi spiego meglio, questi strumenti vengono, come dire, regalati ai figli, bambini, sempre più precocemente dai genitori, il telefonino, questo è ben noto, ma anche tutti i dati di altre ricerche, appunto rilevazioni in Italia, dicono che chi ha i figli sono i primi a installare anche internet, quindi sì. Si cresce dentro, come dire, con questi strumenti che costituiscono quasi una protesi, mi viene da dire, abbiamo usato questo, no? Una protesi espressiva di sé, e questo è dovuto ai cambiamenti intervenuti che hanno cambiato un po' la nostra vita anche di adulti, quindi un po' come in adolescenza si è sempre visto, no, diciamo, al motorino, allo skateboard, al rollerblade, alla chitarra, ad alcune aree di espressione, magari considerate anche più creative, ma comunque che avevano a che fare con un prolungamento di sé, gli adolescenti odierni, nella stragrande maggioranza, crescono con queste, diciamo, protesi relazionali. Allora a noi ci interessava capirne, proprio anche alla luce di poter organizzare eventualmente poi degli interventi che mettessero al riparo da un uso rischioso, un uso che appunto poi risultasse regressivo, metterne in luce invece gli aspetti anche evolutivi e quindi gli aspetti anche fisiologici, cioè in che senso possono sostenere la costruzione delle relazioni con gli amici nella società moderna, nelle relazioni con la coppia e in che senso sono anche in relazione con i propri genitori, che in realtà sono i primi che lo regalano. E mi sembra che da questo punto di vista si possa poi allora costruire, ragionando con i ragazzi, anche degli interventi che li mettano al riparo da un uso, possiamo dire, più patologico, eccessivo, regressivo, insomma. Infatti, quindi non demonizzarle, ma capire come e in che modo possono servire anche i nostri ragazzi per crescere. Dottor Roma, prima di salutarla, una domanda. Lei ha figli? Sì. Ecco, e alla luce della ricerca che il Censis ha svolto, come genitore, che consiglio, che raccomandazione, che riflessione si sente di condividere con la grande famiglia di questa casa non è un albergo? Qua voglio il papà, dottor Roma. Sì, dico, ma... Non il direttore del Censis. Mm. Io ho una ricetta che in realtà mi è stata trasmessa da mio padre. Uso sempre quella, ho sempre usato quella con i miei figli, cioè grande autonomia, grande responsabilità. Cioè non è pensabile che i figli non siano aiutati a pensare con la loro testa, quindi... Anche i miei figli sono naturalmente su Facebook o cose di questo genere, però come offerta di famiglia e quindi di genitori non è la virtualità di Facebook piuttosto l'uso del telefonino, piuttosto cose, o il motorino, insomma tutto quello che naturalmente serve oggi a vivere pienamente la vita attuale, sostitutiva di rapporti più tradizionali, dello stare insieme, del cenare insieme, soprattutto di dimostrare un interesse e un'attenzione che non è egoistica, quindi dire ai figli non solo che gli si vuole molto bene, ma anche che si rispetta le decisioni, ma quelle giuste, cioè se ci sono delle decisioni sbagliate non vanno lasciate correre, non le ho mai lasciate correre, per fortuna ce ne sono state anche veramente molto poche, mi ritengo un genitore veramente molto fortunato da questo punto di vista, ma anche il senso di dare sempre a qualsiasi cosa che uno fa, allo studio, una vacanza, il divertimento, una vita di relazioni, di amici, eccetera, eccetera, nel massimo di pienezza, cioè non fare le cose tanto per farle, non tanto andare a scuola tanto per andare. Quindi non dare nulla per scontato, dottor Roma. Ai figli anche l'amore per tante cose che la vita ci mette a disposizione, tutte quelle belle. E se uno non lo fa, lo può non fare, una, due, tre, però poi se non ne fa nessuna, allora lì entra in gioco un rapporto un po' più, se vogliamo... educativo, diciamo questa parola, insomma, un rapporto in cui uno fa l'adulto e l'altro fa l'adolescente e poi il giovane e così via, ecco, non rinunciare a dare spazio ai figli, sì, ma nello stesso tempo rinunciare anche a dare orientamento molto pesante, voglio dire, essere molto precisi. Decisi, ecco, riprendere un po' in mano quella barra di a cui accennavamo prima, quindi non rinunciare a dare lo spazio, ma non rinunciare al nostro ruolo di genitori. Dottor Roma, è un buon consiglio, difficile tante volte da seguire, però questa è un po' la strada. Intanto, dottor Roma, la ringrazio per essere stato con noi, la saluto, spero di averla ospite ancora in casa nostra presto. Buona giornata. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati insieme, c'è ancora posto nel divano di questa casa non è un albergo, se volete accomodarvi, intanto il nostro consiglio di lettura. Oggi, grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, potete ricevere a casa un libro dal titolo molto interessante, Genitori Slow, educare senza stress con la filosofia della lentezza. Se volete ricevere questo libro a casa, dovete essere il primo ascoltatore a inviare un'email a esserebenessere@radio24.it con il titolo del libro, Genitori Slow, il numero di telefono e il vostro recapito. In collaborazione con IBS.it. Professor Lancini, il libro del nostro consiglio di lettura parla di lentezza, invece i ragazzi vanno veloci, anche noi genitori forse li educhiamo un po' alla velocità e vanno veloci anche nel modo in cui comunicano. La prendo larga perché Alberto Pellai ha selezionato alcuni sms su cui vogliamo riflettere. Li ascoltiamo perché attivano, Alberto, pensieri, giusto? Certo. E poi ne parliamo insieme. Ciao, scusa, ma volevo dirti che non voglio più stare con te. Però ricordati che ti ho voluto e ti voglio ancora bene. Ciao, ho un piccolo problema da dirti. Ero ubriachissimo ieri sera e ci sono andato con un'altra. L'ho saputo adesso e non sapevo come dirtelo. Piero! Questa vacanza è stata bella di brutto, una di quelle che non ci dimenticheremo mai, una di quelle che fra qualche anno ricorderemo divertiti e consapevoli dei grandi amici con i quali abbiamo condiviso questa fantastica esperienza. Speriamo ricapiti al più presto. Bella, Pier, ci becchiamo doma. Alberto. Ma ci si spalanca un mondo davanti a noi, no, che siamo della vecchia generazione. No, parla per te, scusami, perché io gli SMS ormai sono diventata capace. Professor Lancini. Sì. È svenuto nel frattempo, no? No. Ma insomma, non vogliamo demonizzarli, ma certo ormai delle storie nascono e si interrompono via SMS. Meno male che siamo dell'altra generazione e ci rimarrei malissimo. Professore, lei? Sì, di sicuro, ma diciamo che appunto in questo senso però c'è, adesso abbiamo sentito queste storie, ma ce ne sono molte che testimoniano anche di come si costruiscano le relazioni. Credo che uno degli aspetti è proprio questo, forse con tutte anche i dubbi che vengono, però questi SMS rappresentano delle, in molto breve, delle piccole lettere anche d'amore, no? Dove transitano molti affetti, molte emozioni, a volte anche molto pensate dai ragazzi, che non è che, come dire, li chiamano short nel senso che sono piccoli e corti, però sono molto pensati e densi di affetti. È un altro modo di comunicare, poi bisogna vedere il contenuto, però insomma aiutano, Alberto. Una cosa che colpisce è che chiaramente cambia il lessico, oltre al, quindi a cosa si dicono, anche come se lo dicono. Ma perché cose così importanti come mi metto insieme a te, oppure ti lascio, oppure fermiamo il momento, è stata una vacanza epocale e te lo voglio dire con un SMS. Cioè, cosa dà in più l'SMS rispetto al dirselo a voce? O, come tanti dicono, perché riescono a dirselo solo con l'SMS e non quando sono faccia a faccia? È vero che quello che può preoccupare è se i ragazzi, come dire, se li dicessero solo attraverso queste, no, modalità e non ci fosse modo di dirselo, però forse si perde di vista che può essere anche un valore aggiuntivo, no? In un momento sei lontano, sei impegnato, sei anche coi tuoi genitori, ti viene in mente un momento passato bene insieme, vuoi comunicarlo e condividerlo con l'altro e quindi entrare in contatto. Da questo punto di vista sono delle forme anche di mantenimento della relazione, come dire, nuove, messe a disposizione dalla nuova tecnologia. Non lo so, perché da una parte è giusto vederne i limiti, dall'altra non vorrei si provasse una certa nostalgia per il periodo in cui stavamo tutti in coda durante le vacanze estive in attesa dell'unica cabina del paese. Si ricorda? Mamma mia, che stress! Per poter telefonare alla fidanzata collocata dall'altra parte del paese. Quella era anche una buona scusa, professore, sì, perché sì. Non c'erano i telefoni, adesso invece le fidanzate e i fidanzati dicono, ma insomma il telefonino. Devo dire che... Vi posso confessare un segreto, Alberto? Certo. Alberto Pellai gli SMS li riceve ma non risponde perché ha un rifiuto, professor Lancini, non so, io glielo mando, lo controlli lei, a scrivere. Lui che usa internet, usa la tecnologia, anzi mi insegna spesso ad utilizzarla, ha un blocco sugli SMS totale. Alberto, perché? Proviamo a parlarne. Guarda, non hai più l'età per fare, per essere, no, un protagonista di questa casa, non è un albergo, ma anche su di te si potrebbe parlare. Io sono un grande imbranato, quindi veramente con le mani, con le dita riesco a fare pochissimo e per me è troppo faticoso scrivere un SMS, ci metto molto molto più tempo a quel punto faccio il numero e lo dico. Però lo dico, Alberto, voce. Pellai dovrà imparare, perché tra poco anche lui, come molti genitori fanno, io per prima, dovrà mandare degli SMS ai quattro figli, quindi no, scegliti una compagnia con degli SMS gratuiti, perché sono davvero tanti. Andiamo a sentire allora gli SMS che i genitori mandano ai loro figli. Alberto, impara. Il tuo primo messaggio mandato dalla tua mammina nel tuo primo cellulare. Usalo con cura. Ti voglio bene, mamma. Bimba, adesso sei davvero grande, ma sei sempre stata responsabile e saggia. Però, qualsiasi cosa hai in mente, parlane. Ti voglio bene, un abbraccio. Ti muovi a tornare a casa? Mi vai a prendere il pane? Grazie. A che ora torni? Ciao. La mamma ti vuole tanto bene. Sei una ragazza davvero in gamba. Bisogna solo trovare la soluzione giusta. Baci. Bravo. Ce l'hai fatta a prendere la patente, eh? Oggi vieni in ditta che andiamo a prendere la macchina. Professor Lancini, lei non è che ha sbirciato il mio cellulare sul mio cellulare, eh? Perché mi sono ritrovata in molti, mi sono ritrovata, forse è Alberto che mi ha fatto la spia, perché io da mamma li trovo magnifici, no, professor Lancini. Sì, sono belli, no? In fondo appunto transitano, come vedete, anche attraverso questi strumenti gli affetti. Io devo confessare che sono come Alberto Pellai, anch'io non rispondo mai, ho anche delle mani grosse, faccio fatica col cellulare. E vabbè, però ma allora... Bisogna però tenere in considerazione che invece per i ragazzi cresciuti proprio nella relazione in particolare con i genitori, che sono i primi ovviamente a dargli il telefonino, questi strumenti invece hanno un uso appunto fisiologico importante. Penso che la questione con i genitori sia poi una delle vicende davvero importanti, nel senso che è vero che nascono come degli strumenti che i genitori danno per avere un controllo nella società moderna, essere sempre in contatto con i propri figli e avere a disposizione, è un aspetto che rassicura ovviamente, no? Quando si passano le giornate lontane per lavoro e ci si ritrova la sera. È vero che dopo però gli SMS piano piano diventano quelli privilegiati, passano da quelli dei genitori a quelli per gli amici o in particolare nella relazione di coppia, ma questo in linea un po' con l'adolescenza, dove si va più verso la socializzazione, insomma, coi coetanei. Alberto, però a questo punto mi piace un po' ricontestualizzare la nostra chiacchierata. Siamo partiti dalla trasgressione e siamo finiti a parlare degli SMS, delle mamme, dei ragazzi, degli affetti. Abbiamo perso la bussola o l'abbiamo, o c'è tutto un filo rosso che lega queste due situazioni? No, guarda, io credo proprio che ci sia un filo rosso, nel senso che poi di nuovo costruire un mondo di regole, far crescere i nostri figli proprio col senso e il significato di quello che fanno e del perché lo fanno, può passare attraverso anche una buona educazione che il genitore dà al figlio su come si usano i nuovi media. Abbiamo anche nella nostra trasmissione in passato parlato di cyberbullismo, per esempio, di cose che possono fare molto male quando gli adolescenti usano questi strumenti tecnologici in modo inappropriati. Direi che un genitore, quando mette in mano uno strumento così potenzialmente ricco, ma anche così potente, così a volte potrebbe essere pericoloso, deve dotarlo anche della capacità di sapersi autoregolare e controllare. Per esempio, e qua richiamo in gioco il professor Lancini, una mamma mi ha fermato proprio la scorsa settimana e rimaneva sconvolta perché guardando insieme alla figlia gli SMS che lei aveva mandato, 9 su 10 erano di questo genere: ho appena finito di apparecchiare il tavolo, adesso torno in camera a studiare, mandato alla sua migliore amica. E diceva: ma com'è possibile che perché hai in mano un telefonino sprechi l'80% di quello che scrivi per dire cose che non hanno apparentemente alcuna importanza? Professor Lancini, ha senso dire a un figlio: ma usalo in modo essenziale, cioè comunica quello che serve, e quindi magari abbattere quegli abbonamenti che ti fanno mandare gratis 100 SMS al giorno, dove poi non dici veramente niente per usarli tutti, oppure no? Ce lo dica lei. No, per il genitore può aver senso, però credo che questo sia il filo rosso. Quello che serve appunto per i ragazzi, e la ragazza gli risponderà: ma è questo che mi serve, è essere appunto sempre in contatto con i miei coetanei, mi serve in questo momento mantenere una relazione viva, una relazione possibile grazie a questi strumenti, e l'essere in contatto con un'amica mentre si è appunto anche in casa, mentre si sta studiando, mentre si è chiusi nella stanza, ma lo stesso può valere per quel messenger che viene acceso appena si rientra a casa, anche mentre si fanno i compiti, ha proprio a che fare con quella necessità, potremmo dire, di contatto con la generazione che caratterizza gli adolescenti. Allora, cosa c'è di più inutile di uno squillo, no? Che a proposito di risparmio, è questa invenzione che hanno appunto avuto i ragazzi, per cui si inviano un messaggio che, se non è codificato prima attraverso un'intesa tipo non ho credito, richiamami, vuol dire nella maggior parte dei casi ti sto pensando, guarda che sono a scuola, guarda che sono a casa, guarda che sto facendo altro, ma sei nella mia mente. Sarà forse che i genitori allora sono invidiosi perché i figli non mandano mai uno squillo? No, ai genitori a me le mandano gli squilli, Alberto, li manderemo, il professor Lancini ed io li manderemo anche a te. Professor Lancini, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, alla prossima. Arrivederci. Buona giornata da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.